invece c'ha 70, 76, 77 forse. Quella macchina fa schifo, mai. Ma stasera io prendo le chiavi. Gliela lavo lì via Catarocchino, capito? Non la faccio pagare niente. Per cui ogni tanto manda roba. L'altro giorno mi ha portato, era in campagna, ho fatto un sacco di frutta, pere, i cacchi, ma 10 cacchi mi ha dato anche adesso. Che aveva questi cacchi, lo zio della Mexica, guarda, che aveva l'interno quando ne aveva là. Ma questi cacchi così buoni, piccoli ma dolci, buonissimi, guarda. E un bel perdeva perché non ce la faceva a staccarli tutti, li aveva talmente tanti. C'aveva la campagna lì, andando a Platamona, no? Dove c'è il maneggio di Muggia, ce l'è presente di fronte. Io lo so. No, ma mi piace, mia moglie li mangia, è Ilaria. Aspetta, mi sta chiamando mia moglie. Adesso l'ho fatta anche il cacchi mela. Non è che siano così soli. Ok. C'è il cane che stava bevendo, pure del muso, lì non si può alzare. No, il mio adesso, prima si culturava e sfruttava tutto, adesso invece sai cosa fa? Se lo lecca con la lingua e non mi bagna nulla, prima dovevo stare a casa con lo strato. No, tipo non si cuzzuleggia, non è Beethoven, è che è gocciola, io non voglio faccia gocce per terra, capito? Ora c'è sotto il vagliolino. Ogni 2-3 giorni glielo laviamo, mamma mia, guarda, non vuole questo cane, cazzo. Mai più bulldog inglese, mai più. Un bel cane, guarda, tranquillo, sereno, non ti rompe le palle, ma è un bambino, cazzo, un bambino, tocca stare appresso a lui. Oggi stavo scendendo via Bologna col cane, e sentito abbaiare in questa macchina, guardate, c'erano due barboncini, che c'era un padrone che era nel garage. E li lasci stare che sono cattivi qui. E chi te li sta toccando? Io ho detto, non gli sta toccando nessuno. Poi gli ho detto, lo so dove avevo, due barboncini che se fatto possono essere cattivi. Barboncini. Signore cani cattivi allora già asciutta. E appaiono perché sono in macchina, no? Li ha chiusi in macchina, lui stava pure nel garage. Se li vuole attesa si rimane a tutti i due. Signor Filippo, gli devo vedere poco, poi si rompe il balle. Aspetta. Cazzo di via. Allora, tornata, tre pacchetti di sigarette mi ha portato. Mi sono dimenticato di aver trovato la busta. Ma sì, quella lì. Allora. Andare. Mi ha dato tempo di regalare tutti i sigaretti. Uno in zinga di te regalare. Sei fortunato. Sto mattando in vaia, mi ha fatto 100 euro di rame. Esatto, e anche non ti devi buttare due giorni in zinga. Ma vai, cosa, un di rame, cazzo, ma come mi vedi, no. Ma faccio vergogna. Poi Cosmino mi conosco tutti. Se chiamavo io per portare via il ferro al lavoro, che se non andavo in di ferro. Ma no, cioè, è quello che passa sempre qua, tratto bene. Una volta l'ho visto che stava controllando il cassonetto, ha giocato un fruscio. Ho detto vieni che c'ho la lavatrice da portare via. Arrivo, arrivo, venuto nel portone. Dov'è la lavatrice? Nel pianerotto, la io, alza. È salito, si è caricato in ascensore, lui dice, si è accutanato al bordone. Ciao, grazie, recupero il cestello, recupero tutto, fai quello che ti piace, basta, te la butti. E ce l'ha portata via, capito? Se no ti fanno pagare 40 euro, portando. Appunto, quindi cos'è? C'avevo tutto quel rame delle antenne, tutto quella roba che ha giocato a tappeti, tubi vecchi, ho fatto tutto. Ho fatto tutto. Ed è tornato, ho portato le sigarette. No, ma adesso le aveva comprate. C'avevo due buste, una dei carciofi, una delle sigarette l'ho lasciata sopra il tavolo. Ha visto passare da lì. No, ma poi adesso ad esempio lunedì devo portare l'Alfa a cambiare un cuscinetto e mettere una cuffia dal meccanico, la tiene tutto il giorno e molto probabilmente mi serve, capito? Quindi quando mi serve la macchina gliel'ho sempre chiesta, se l'altra la usa mia figlia, no? Quella di mia moglie, io sono a piedi, c'è freddo, c'è la moto, allora gliela chiedo, ma la va sempre. Ma da Franco l'hai portato? Da Franco, no, io mi servo con l'Alfa, da Franco vado, no. Io con l'Alfa non mi muovo, da Franco Luzzetti, ma stai scherzando. Prima io andavo da Roberto Meccanico. Poi anche lui è diventato un po' così, e allora mi sono spostato da Franco Luzzetti. No, la porto a Franco, garantita la macchina, già, niente da fare. La prova, la riprova, le fa diagnosi, anche se non gliela chiedi, però guarda che c'è questa spia che, a parte il fatto che deve cambiare il cuscinetto del sensore dell'ABS, quindi è un lavoro molto delicato. Tu c'è a fare la diagnosi, no, la porto a lui. Parlo di più però, ma frega niente. Da Franco Luzzetti, devo dire, da Franco Luzzetti. Allora Romeo, che era tanto Torres, che prima era in via di Sicilia, quando andavo io da Luzzetti, era in via di Sicilia. E Franco era amico mio, lo conosce da minorino, lo abitava lì nella discesa praticamente c'era discesa e poi giravi e c'era lo zio che faceva il papo e poi c'erano loro da fare. E ci andavo anche in via di Sicilia, faceva le alfa della polizia. Certo che sì, però poi avevo cambiato macchina, avevo l'Audi, avevo il Volvo, quindi andavo alla Volvo, andavo all'Audi, capito, la German Car, sono tornato all'Alfa e me la segue sempre lui, sempre, tagliando tutti i lavori, cinghia di attribuzione, ha fatto sempre tutto lui. No, pensavo Franco, quello in via, come si chiama quella al monte, là, quello lì. No, quello che ha cavalca, no, quello lì è bravissimo lo stesso, non credere che sia, fa corsi, tutto quanto, è molto bravo, è piccola l'officina, però lui è bravo. Io so, ma infatti vi prendo l'appuntamento, di buon in mezzo, ma Franco, metto lunedì mattina alle 8:30, vieni qua. Io arrivo a quell'ora, che prima di sistemare i ragazzi, ti do uno strappo a casa, capito? Franco fa così, poi mi ha detto se hai bisogno della macchina sostitutiva, no, già c'è la macchina, non c'è problema, mi accompagna, così la prova e quando è pronta, con la scusa di provarla, viene a prendermi, me la dà verso le 6, mi ha detto, ci vuole tutto il giorno, c'è la scena, è tutto... semiassi, avantreno, braccetti, tutto ce la scende, tutto davanti ce la scende. A me alla Fiat mi danno sempre la macchina sostitutiva, praticamente mi hanno dato per due volte la Jeep con la nuova, che se tu vedi come c'ha per la mano, tutto quanto diverso, non è che, non è come le altre macchine, infatti non ha gattato per la mano, è un santino, non ha gattato, cioè. E niente, l'ultima volta che mi hanno cambiato quel pezzo là che come volete, che mi hanno rotto, mi hanno dato la macchina sostitutiva, mi hanno preso, invece mi preso l'una e mezza è pronta, dai. E ho detto, vabbè, vengo direttamente stasera alle 3, sì, va benissimo, alle 3, venga, non c'è problema, mi hanno dato la macchina che c'aveva anche la nastra dentro, c'aveva il gasolio. Però il collega, quello che me l'ha consegnata, non ci ha fatto il giro a controllare tutta la macchina, quando sono tornato sono andato al cimitero, ho trovato la vita, mi ha detto, la macchina è cambiata, e allora ho detto, è della Fiat, mi ha lavorata come... Cerca se te l'ho toccato il fanalino, guardate, non me l'ha accorto, il fanalino spaccato e ammaccata pure. E cercate un collega che me l'abbiamo toccata qua la macchina e tu me la fanno pagare, sono ritornato, l'ha ripiata un altro collega, ci ha fatto tutto il giro della macchina e dice questo fanalino rotto, qua non è segnato nel foglio che e ha chiamato il collega, ha detto no, era già rotto, mi sono dimenticato di segnarlo, per fortuna è stato onesto, se no mi avrebbero fatto pagare il fanalino o la macchina. Ehi già, cazzo, ma come prendi una macchina sostitutiva sei tu che devi controllare, non è lui, no? Ecco, ti vai un giro, controlli, fai. Ehi, io ho vissuto una vita con le macchine dell'Arval, poi l'Easy Brand, tutti in leasing noi ce le avevamo, sia quelle di Acciona, sia quelle di Abbanoa, tutte. E ogni volta mi consegnavano la macchina, mi vasivo tutto, foto, fotografie, tutto, dentro, fuori, tutto. Perché quando poi la riconsegnavo, cazzo, era un casino, a noi ce la facevano pagare davvero. Non si poteva fumare dentro la macchina, e ogni settimana dovevi consegnarla pulita, è un casino, No, ma anche alla Germancar a me mi davano una macchina sostitutiva, anche Franco, nonostante non sia una concessionaria, che un'officina, Alfa Romeo te la lascia ai necessità, ma io non ne ho di necessità, capite? Però la Germancar me la davano, la Volvo lo stesso, la mele me l'avevano data lo stesso, sempre me la davano, le concessionarie grosse, la verità, anche quando avevo la Smart, lo stesso, portavo la Smart a fare italiano, mi davano un'altra Smart, loro, aziendale, capite? Quindi è così, ma funziona così adesso, se vogliono lavorare è così, perché molta gente va in difficoltà, dice quando te la porti, io sto lavorando qui e là, vabbè tu portamela e ti diamo quella sostitutiva, non ce n'è problema. Ehi, ma sai come lavorano la Fiat? Prendono un foglio in mano e compilano tutto il foglio. In questo foglio c'è la macchina disegnata, come quando tu fai il cili, ce l'hai presente, e loro mettono la croce dove c'ha problemi, dove è ammaccata, roba del genere. Questo disgraziato non l'ha fatto, il foglio praticamente nove cognome tutto quanto l'ha preso, però non ha controllato la macchina, quindi si è dimenticato tutto di me l'ha sanificata, prima di darmela, di ha sfruttato il sanificatore, l'ha chiusa, poi ha sfruttato dentro, qui ha chiuso, e vedete, aspetta un attimino, poi l'apriamo e se la può prendere, l'ha sanificata prima di darmela, capito? Ehi, lo facevo anch'io quello, te lo sto dicendo. Io il primo periodo con le macchine dell'Arval, non della Disimplano, dell'Arval, sono stato responsabile dei mezzi del mio distretto, però, del mio lotto, erano 7-8 macchine. Le seguivo io, ogni mese l'Arval mandava questi fogli con la macchina disegnata, con tutte le voci, parotti anteriore, parotti posteriore, feci, centene, tutto. E io dovevo controllare la macchina una per una, era una rottura di balle, infatti me le volevano ridare, mi hanno detto no, li voglio più, non mi interessa, non ti pare mostrare, cazzo, con tutte le cose ce la fai mostrare anche appresso alle macchine. E allora avevano messo un ragazzo di Sorso che stava lì all'impianto fisso, le macchine erano lì, e lui c'era il tempo di controllarli. Io dovevo viaggiare a Sassari, Bucciando, Ende, Torrente, a controllare le macchine a voi, ma prendetevela in culo, avevo detto al mio dirigente. Adesso era un amico, ho detto tanto io non ne voglio più sapere, cioè farò fare un altro. Ma cavolo, perché tu sei pignolo, ma non ne voglio, cioè con tutte le cose ce la fai, stare appresso le macchine, tu, ma a tutti i dini, e niente. E comunque questi fogli a me l'Arval, quando ero responsabile, mi li chiedeva mensilmente, capito? Mensilmente voleva a fare tutti i controlli delle macchine e via fax mandare macchina per macchina con numero di targa, chi era segnata, chi non era segnata, per vedere se c'erano anomalie, capito? Per vedere se c'erano anomalie, perché loro poi quando fatturavano all'azienda, se c'erano anomalie, li rimettevano, li facevano in bagaglio. Infatti mi ha detto questo che meno male che è stato il collega, è stato onesto, te l'ha detto, se no si pagava il dramma, dice deve stare anche lì attento, la prossima volta quando le la dava stia attento a quello che gli danno, perché vabbè io che ne sapevo, cioè lui ha preso il foglio, l'ha compilato, mi ha chiesto nome e cognome, ha chiesto la patente, ha messo il numero di patente, tutto là. E il numero di patente, vogliamo in poco di rigorci, codice fiscale, fotocopia la patente, poi le macchine a noleggio così, adesso a Ciona c'ha le macchine a noleggio a lungo termine, mi pare siano sempre lì in plan, se non sbaglio, non mi ricordo, l'altro giorno mi sono visto con un ex collega e c'era il fiorino nuovo, quindi, capito? Infatti me l'ha detto, no, ce ne sono altre tutte nuove, ce le hanno cambiate, però siamo dovuti andare a Urbi a prenderle, grazie per la rottura del ballo, che sono arrivate lì al porto di Urbi, direttamente da Torino, capito? E vabbè, comunque la macchina già, stai tranquillo che si la tira mai a te, già ve la durremo perfetta. È che ti ripeto, io avevo colleghi che erano dei cani. Io mi incazzavo, cazzo, non ero responsabile, mi incazzavo con uno in particolare, fumava letto, diceva, vabbè, non devi fumare, stai facendo tutto il tetto giallo. E io la poi girava, ma argomenti, cazzo, vai a lavarlo, dimmi come fai a lavarlo. Tu vedrai che questa macchina te la debitano. Alla fine ha pigliato un culturale, gli hanno fatto due lettere di richiamo, alla terza l'ha minacciato, alla terza se rientra la macchina e Claudio fa la relazione che quella macchina in quelle condizioni, alla terza lettera ti facciamo sci fuori dai coglioni, non ha più fumato in macchina. Guarda, io ho idem, come lo usavo solo io, solo che quando andavo in ferie oppure magari la sera quando io non c'ero lo usavo qualche altro collega, mangiavo il panino, la caffè in terra, mangiavano la merendina e ti mettevano nelle tasche laterali, ti mettevano la mancia. Insomma, bucacciola, si soffiava le nasi e si lasciavano il fazzolettino dentro. L'unico che lo pulivo il furgone ero io, ne toglievo tappetini, tutto quanto lo pulivo dentro, fuso, tutte le parti. Però c'era gente che se ne fregava, chi lo prendeva così, non se ne fregava, dice tanto quello prendeggiato, diceva anche sta lunga, lo lasciavano sporco dentro, fuori, tutto grave, con i pedani viuti, io come arrivavo tutte le pedane, prendevo, le accatastavo, prendevo il muletto e le scendevo, e pulivo tutto il furgone dentro, finito di lavorare, invece gli altri lasciavano pedane, risi che ritiravano, insomma, un casino. Guarda, la mia può essere sporca pure, la macchina va dentro sempre pulita, sempre profumata, pulita. E fuori perché sono scalognato, la lavo il giorno dopo più. E quello niente ti sembra, cioè che tu pigli il furgone e ti va a pulire a mezza di latte. Ma infatti mi incazzavo, una volta siamo andati a anticipare, ho detto guarda, se sono così lasciare il furgone. Ma chi è questo qua? Perché, cioè non è questione di chi è più dove. Il furgone vuole lasciare, come non trovano, perché io non trovavo, io mettevo la roba in dentro, lo profumavo, lo facevo, mi mettevo in città con scusi, guarda, lo facevo proprio pulito pulito, proprio lucido, quando entravi ti faceva piacere. Ma quando uno è uno zingaro con la macchina così, è uno zingaro anche a casa sua. Io ti ripeto, l'ho fatto, quel lavoro, proprio per non avere problemi, perché alla fine avevo discussioni per le macchine. Alla fine ho chiesto al mio dirigente, ho detto, toglimi questi carichi, a me non mi interessa più, che si arrangino. Allora dice, allora mi arrangio io. Perfetto, arrangiati tu. E Guenza non buffonava, poi si annudava, faceva il giro, controllava la macchina, l'anno di merda, una macchina da schifo, e scriveva, a chi te l'ha detto, la terza che ti faccio di lettera di richiamo per la pulizia della macchina sei fuori. Come sei fuori, sei licenziato? Ma perché se non le minacce c'è per persone non le fanno, capito? Sono bucaccioli. Niente che è abituato a guardare dalla merda, per forza. Non è possibile, cazzo, che ti lasciano tutte le pedane dentro. Ogni volta quando ho preso il furgone, poi quando devo lavorare, fare lavori che dovevano fare loro, lo dovevo fare io. A volte ci lasciavano resi, bottiglie, botti di bottiglie, cioè dove scaricare, tutto qua tutto da ricaricarlo, capito? Aspetta, non è possibile, cazzo, non è possibile. Voi va a vedere mai dietro anche la gaccia. Sono ammazzato nel scende là, cazzo. Ho trovato al bar, hanno fatto i cheesecake e tirami su una regata uno. Ma dimmi due, perché non l'hai lasciato al bar, cazzo? Mamma mia. All'ingrasso. Non sai quanto lo fa buono, la moglie del socio di Laria, di Enzo, minchia, cazzo, ma canto, li va a fare questi cheesecake già, mamma mia, quando li portami, curi mio, canto già buoni, dicevi, stasera assaggia questo tiramisù della moglie di Enzo, è poco di lasciare buono, che... Viviano non faceva quel buono, mi metteva la panna, ovviamente. Lo faceva era così delicato, buono, non avevamo imparato in questo ristorante, abbiamo preso il tiramisù e gli abbiamo chiesto chi lo faceva, e ha detto no, fa il cuoco, non posso parlare così, sono andato, perché qualcosa che lo fa, no, gli voglio chiedere una cosa, che cosa ci ha messo il tiramisù, può dirmelo, che la pulisci, poi la alleggerisci, come l'ho mangiata, a me piace, ma come lo faceva prima, gli ha lanciato più trucco, quando devi mettere un po' di panna in mezzo e riammagavarla con questo, e praticamente fatto con la panna mi piace ancora di più. E tu non ci fanno la mascarpone, ciu. Capito, non fa poco più leggero, che di solito la farà più ricca, no? Invece in questo modo qua lo alleggerisce come, già mi piace da prima, ma mi piace ancora di più. Buona, dolci, grazie per voi, buoni, però io e mia moglie dobbiamo stare molto attenti. Capito, poi soprattutto il lavoro che fai l'aria, a volte porta a parte, dolci, queste cose così, quindi bisogna stare attenti. Vabbè, dai, già siamo a fine settimana, Fiabigliellucci, facciamo sacrificio stanotte. E dopo viene la prossima settimana, cominciamo tornare a mangiare. È vero che c'ho le feste, mamma mia, E vabbè, non sono un grande un po' di carne, una fetta di panettone, qualche altro dolcetto, ma quando sei così in quattro già vuoi. Penso che quest'anno me la faccio da solo. Giulia, Manuela viene il 21 e va a prenderla, ok. Manuela viene il 21, vabbè, 21, 22 può stare a casa, sino al 23. Poi deve andare dalla madre perché non si può più muovere, se no, è un casino. Elena invece non riesco ad andare a prenderla perché se lì ce la sino al 3 le ferie e si rientra al sì, quindi è un casino, non so se riesce a farsi dare questi 3 giorni in più, se no non può venire, capito? Ma devi stare attento a questo nuovo DPCM, capito? C'è la chiusura totale, quindi non ti puoi muovere a casa tua, non puoi uscire fuori, possiamo uscire solo a portare il cane blu, quindi anche per Manuela. O sta dalla tua moglie o sta con te, perché non puoi uscire di casa, capito? Non puoi uscire, è un casino. È quello che ti sto dicendo, Clara, Ma fine è che Agnello, Gamberoni, tutto quanto per non mangiare l'asura, dopo ti può andare a mangiare di roba così. Sì, quando gli fai i gamberoni, quando gli fai un pezzo d'agnello, a voi dono i gamberoni, dono un pezzo d'agnello. È lo stesso. Eravamo organizzati per quattro, ma mi sa che alla fine siamo in tre. Capito? Perché, perché anche l'aria, se chiudono tutto, è un casino. Vabbè, dai. Cosa vuoi ti dire? Ci ricorderemo di quest'anno, ci ricorderemo veramente del 2020, che anno di merda, che anno di merda, sottolineo di merda. Io. Vabbè, se serve per... adesso poi c'è anche questo caso di vaccino, io sono un po' contrario, perché avevano parlato che ci volevano almeno 2 anni per fare questo vaccino, adesso di colpo hanno sperimentato già il vaccino. Ho paura che ci sia qualcosa che ci possa far male, loro non lo dicono, capito? Poi dice che nel vaccino vogliono mettere i microchip per localizzarsi dove siamo, eccetera, eccetera, come i cani. Già, adesso ti mando su WhatsApp, te la mando, chi me l'ha mandata a me, grazie a chi me l'ha mandata. Dal 21 al 23 dicembre, leggitelo bene attentamente, te lo mando su WhatsApp, bello in grande. Dal 21 al 23 non si può uscire. Allora, 21-23 dicembre, divieto, blocco mobilità, infraregionale, deroghe per lavoro, salute, urgenza, ritorno alla residenza o domicilio. Poi, spostamenti consentiti alle seconde case nella stessa regione. Negozi aperti, ristoranti aperti a pranzo e bar fino alle 18, aperti parrucchieri e barbieri, questo è quello. Divieto di uscire dalle ore 22 alle ore 5, questo stai attento, questo che ti ho letto. Adesso c'è dal 24 al 27 dicembre, ok? Dal 24 al 27 dicembre, 24 siete chiusi, negozi, bar e ristoranti, aperti con orari, giorni festivi, alimentari, farmacie, tabacchi, edicole e librerie. Vietati tutti gli spostamenti anche all'interno del proprio comune. Deroghe solo per lavoro, salute e urgenza. Non si potrà uscire per andare a casa di parenti o amici, niente pranzi e cene di Natale. Ok? Quindi leggitelo bene. Poi c'è, continua a leggere, devo dirgli tu. Mi chiamo 7 alle 8, adesso con la regionale, non ascolto bene. E vabbè, interessante che a me il 21 è... che non mi rompo la scatola, il 21 e il 23. Boh. Poi per il resto, quella del Buba. Esatto. 21-23 dicembre, blocco, mobilità, infraregionale, deroghe per lavoro, salute, urgenza, ritorno alla residenza o domicilio. Spostamenti consentiti alle seconde case nella stessa regione. Ok? Ma noi la sta ritornando a domicilio, quindi posso andare a prenderla per rientrare a domicilio, lì c'è la residenza qua, non capisco. Dal 21 al 23, dal 24 al 27 cambia tutto, quindi devi rimanere a casa tua, capito? Tu puoi andare a prenderla e va bene. Dal 24 al 27 c'è un altro DPCM dove ci vieta chiusi negozi, bar e ristoranti, aperti con orari, giorni festivi, alimentari, farmacie, poi... Vietati tutti gli spostamenti anche all'interno del proprio comune. Hai compreso? Ci sono solo vedere solo per lavoro, salute o urgenza. Quindi deve rimanere a casa tua, non si può muovere. Sai che ho col fucile a prendere i cinghiali, adesso cominciamo a uscire i cinghiali. Aspetta che te lo mando, aspetta, così te lo dici bene, perché già è veramente un grande casino. Te l'ho mandato. Poi c'è scritto continua a leggere, leggi, perché dal 24 al 27 è veramente un casino. Lo so, e purtroppo la tua decisione è restare a casa, Manuela e Marco resteranno a casa e poi mi sa che Manuela ha 5 giorni di ferie. Quindi viene il 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dopo la rientrata. E non si può muovere perché sino al 27 si può muovere il giorno 28, capito? No, lo so, no, è un casino, mi sa che si sta dimenticando io in una casa giù e restiamo così, Natale di casa proprio. Te lo sto dicendo, organizzazione zero, noi siamo a casa, come rimane a casa. Anche perché non ci possiamo spostare da nessuna parte, a dire ci andiamo in campagna tutti assieme, non si può fare, non si vuole, la residenza è qua deve essere. Ehi, non penso che vada a controllare tutte le case, se tu ti sposi il giorno che puoi andare in campagna, poi te ne resti lì, non ti rompere male a nessuno, quello già magari te lo puoi fare, se dormite lì puoi. Già, te lo dico, non me ne frega niente, mi hanno già avvisato, tu sai che io appartengo a una categoria un po' particolare, no? Ok, mi hanno già avvisato, un amico della prefettura, mi ha detto, state molto attenti perché ci sono 15 droni tra la prefettura e la questura, poi ce ne sono 6 della polizia municipale e altre 8 della guardia di finanza che girano per controllare campagne, posti dove la gente si può assemblare, fare fuoco, fare soprattutto le campagne. Aveva posto già. Come si vede che non hanno un cazzo da fare tutti? Bravo, ed è così Marco, sono d'accordo con te, però questo è quello che si stanno organizzando. E te ne dico un'altra, a Valle Doria, i carabinieri di Valle Doria, la stazione di Valle Doria, la compagnia di Valle Doria, sono già in possesso, allora sai quanto ne hanno già pizzicato anche al buio, a raggi infrarossi, al buio dopo le 10, nelle campagne facendo spuntini, non ne hai idea tu. Ma è tuo mio collega, ex collega. Minchia, ma se loro avessero usato lo stesso zelo con spacciatori per tutti gli altri reati, sai quanto ne avrebbero preso? Ma poi fino a ieri, se vi ricordate, piangevano quelli della questura che dovevano mettersi la benzina loro di tasca, invece poi hanno rinnovato parchi macchine, furgoncini, roba antisommossa, droni, già ne è uscita poca roba. Che bugiardi che sono tutti. Vabbè, il Ministero dell'Interno ha deciso così. Per questa pandemia stanno spendendo una barca di soldi e vogliono arrivare alla fine. Perché quelli che hanno trovato, dov'era? Nella provincia di Nuoro, quel campo enorme piantato a marijuana, non l'hanno trovato con i droni. Sì, praticamente ti entrano anche in casa adesso con i droni, con la scusa della sicurezza. Io sul terrazzo piazzo un jammer, piazzo un jammer bello potente a 2400 MHz e 5800. Così gli blocchi il video e gli cade pure il drone in strada. Giro mi ha fatto ridere, siccome tu hai fatto da piattello, anche bravino. Ma il Tony Sciocca, lo vedo girando sopra a casa, in campagna, prendo il fucile e lo abbatto. E le dico che mi sono sbagliato mi sembrava un uccello. Sì, allora gliene vedi più di porto d'armi. Vabbè, no, l'idea del jammer è più discreta, capito? Non si vede niente, comincia a cadere tipo uccelli colpiti dalla viaria, ma sì, c'è eccesso di zelo per queste cagate che usano, vabbè, perché a rischio zero, capito? Va bene, non voglio essere polemico, mi sto mangiando la frutta, comunque anche oggi sono abbastanza stanco, non so perché, c'è un periodo che sono dopo pranzo, dopo mangiato mi viene un abbiocco tale che devo dormire, lo sai, è come se il cuore fosse stanco, come se fosse al limite, ai minimi termini. Speriamo che sia breve la cosa, almeno non mi sentite più, molti saranno contenti. Se manca la tappignare, e come facciamo senza la tappignare? Gianni! Ehi, amico! Il titolo è la tappignare, cosa ho detto? No, non lo stavo ascoltando perché mi hanno mandato l'ambulanza il 238 che avevamo la Croce Blu prima, e adesso se l'ha riacquistata la Croce Blu di Sassari, la nuova Croce Blu, dai. Ah, io ho capito. No, ha detto che se muore Marco, qui siamo tutti contenti, non lo sentiamo più. Ah, è sempre allegro lui. cosa pensi a morire, pensi a vivere, non a morire. Vabbè, però un 2020 così brutto, guarda, veramente un anno da dimenticare, molto brutto. E poi non abbiamo concluso quelle cose di mamma, quell'operazione si doveva fare, anche perché teme. Dice, io non vado a operarmi per morire di Covid in ospedale, a beccarmi in ospedale. Non si fidattano. Ho detto, lascia calmare le acque, con questa storia del virus, poi il vaccino, anch'io sono un po', temo un po' già, cosa ne so cosa ci metto, nanosonde, che cosa ne ho, cosa ne so, tutto ci posso mettere. Può essere anche acqua distillata, non fa nulla, tutti illudi di essere immune e mettere un becchio lo stesso. Va bene, dai, sono la frutta, no, sono veramente la frutta, sto per mangiare la frutta, dai, riprendete e vi ascolto. Ah, pensavo che lo stia dicendo un altro senso, sono la frutta, come dice, la ribatta la lumine. Ok, va bene, dai, non c'è problema. E ci metteranno anche il microchip per controllare. Lascia arrivare adesso. Lo sapevi già, forse tu lo conoscevi, avendo lavorato a Porto di tanti anni, a Pattorno, te lo ricordi? Ah, Gigi lo chiamavano, Luigi, Gigi Pattorno, che abitava in via Cavour, vicino a mamma. Il Covid, la settimana scorsa, 63 anni. Giovane, allucinante. No, non lo sapevi, me l'ha detto comunque. Ieri mi ha chiamato mio collega, a me perché al satellite ci sono un bel incasi di coronavirus. Pieno è già, pieno. Pieno. Nel mio parto ce ne ho tre, fortunatamente adesso sono negativi. Erano tutte e tre in quarantena. Oggi l'ho visto uno, mascherinato, tutto, cappucciato, e detto a me, no, ho ritirato il tampone. finalmente sono fuori, ma l'ho vista brutta, altrimenti aveva dimagrito 10 kg, tutto succiato, mamma mia, gli ho detto che... E ti lascia il posto di pure, ai polmoni ti lascia il posto, non è che c'è così, no, che ti passa e... Ai polmoni ti lascia il segno. Pesciu che... E poi questo era fumatore, quindi un casino, io per quello sono molto, molto preoccupato. Non mi interessa, io vabbè non sto uscendo, ripeto, vado qua vicino a casa, ma proprio esco una mezz'oretta, porto il cane, non mi allontano, sto sempre qui vicino a casa, con la mascherina, tutto. Poi sono questi giorni che ce la freddo, avevo anche i guanti. Però è un casino, cazzo, è un casino. È veramente un casino, sta colpendo persone che pensavano di essere talmente forti e solo i brimi che si gioca a gente. Ehi, anche qua al mio posto ce n'erano due, capito? Due adesso sono usciti, grazie a Dio, sono stati in casa, non hanno avuto problemi di polmoni, di respirazione, però avevano febbre alta, eccetera, eccetera. E era tutto. Abbiamo detto che erano così. E infatti dalla finestra mi ha detto cosa e gli ho detto guarda che passa a casa tua, no non passare no, e mi ha detto guarda che c'è il cupido, e io ho detto vabbè allora basta, non passa, non devo rischiare. Io addirittura l'ascensore. Nel senso che prendo le chiavi e non tocco i tasti con le mani, con le chiavi li prendo. Sì, già, che sono il dito, non ti appoggi, io prima di scendere ne ho quattro flacconi di cose, di disinfettante, capito? Prima di scendere mi disinfetto le mani, quando salgo. Il problema è che l'ascensore è un posto chiuso, se lì dentro è entrato uno infetto, non venuto dalla mano, è che nell'aria è me. Purtroppo è nell'aria, capito? E quella è la mia paura, e quella è la mia paura, ecco perché non frequento nessuno, sono sempre da solo, eccetera. Però anche nel palazzo. Il pericolo è quello, soprattutto nelle palazzine nostre che sono abbastanza grandi, capito? Il pericolo è quello. Ciao ragazzi. Ma che hai già portato lei, no? No, alle 8 l'ho posto. Io anche io sono già alle 8 meno 20. Alle 8 l'ho posto e poi. E poi vediamo cosa fare. Io, stanotte c'è il grande fratello, assieme alle grandi sorelle. Che carina. Praticamente l'ambulanza che guidavo io, questa ambulanza l'ho anche guidata, capito? Ma l'ha mandata Antonio, che è nato cibo dove lavora lui, no, all'interno dove lavora lui. E questa ambulanza qui l'avevamo venuta in continente, se l'hanno ripresa la cibo di Santa, e la sirena. Altri decidani vici, mamma mia. Sirena a fischio, però io l'avevo piazzata io questa ambulanza qua, la sirena. Invece la notte l'avevo piazzata io quella notte. Ma se non ci usano più quella, no? No, l'hanno presa come mezzo così storico, là. Mezzo vintage. Esatto, hanno fatto un giro anche vicino a casa tua. Oh, cazzo non l'ho vista, sennò le facevo le foto. Non c'è Bruno, è dove lavora Daniele. Dove lavorava, non c'è più. Ah, adesso è vero che qua giù via Venezia. Aspetta un attimo. Ehi, fai, ci sono qua. Vai, guarda. Cosa me l'hai mandata? Eia. Se no, con nuovo l'hanno fatto. Qua stanno salendo via Milano. Eia, sì. E dove lavora Antonio? Sono all'interno. All'interno di quel cortile c'è l'assicurazione, c'è il bombolaio, ci sono loro. E lì non c'è anche Daniele, lavora lì Daniele. Non c'è più, se n'è andato. Oh, ah, ecco, vedi, piazzare. Cazzo, no, ma non l'hanno fatto. E quando sei andato era attaccato la sirena. Cazzo che bello, 238, che... Tu fai sa che io l'ho guidato in urgenza anche con la macchina lì. Sa restaurarla quanto ci è voluto. Molto bella, gli ho mandato un po' di fotografie storiche di quando io facevo servizio ambulanza alla Croce Blu, proprio che eravamo con i camici bianchi ancora, come gli infermieri. Quello veramente. Il nuovo centro mobile di animazione questo, eh? Il nuovo centro mobile di animazione. Poveracci. Che bello. Adesso ti mando un po' di foto di quando lo facevo io, volontariato con la Croce Blu, come eravamo vestiti, come... questa qui è una simulazione che abbiamo fatto in Piazza d'Italia di un tipo che è caduto in moto, io gli ho tolto il casco e ho fatto vedere come si beva il casco quando uno cade in moto, perché c'è una tecnica per levare. Sì, l'ho visto una volta, un incidente qua a Milano, uno in moto. Arrivato, perché glielo volevano togliere, e ho detto non toccarle il casco, aspetta che arriva al 118. È arrivato il medico, che è arrivata medicalizzata, e gliel'ha tolto lui. Ho visto, c'è una tecnica, le mettono il coso, il collare prima di toglierglielo. No, cioè, lo so, ti allargato il casco prima di tutto, vuole allargato sotto dove c'è il mento, vuole allargato e sfilato piano piano. Sì, sì, gliel'ha attaccato, gliel'ha allargato, però prima di toglierglielo il medico gli ha messo il collare, capito? Poi gliel'ha sfilato piano piano. Perché può avere distorsione al collo, la vertebra, la colonna vertebrale, eccetera. Ma mi ha mandato qualcosa? Sì, ha chiamato la simulazione che abbiamo fatto in piazza con la Croce Blu, che ho ancora con la Croce Blu, ma riesce dal giro, al giro. Ma esiste ancora il rabo? Sì, c'è ancora. No, è sempre lì sotto il ponte gatto. Eia. Uia, 6, 8, 9, 10 sono. È passato anche oggi. Guarda questa riambulanza. Sempre vintage. Scritto è la Volkswagen. Io voglio infatti, la Volkswagen. Ma guarda, di questi ce n'è mi... all'estero però, in Italia forse no. Sì, stiamo facendo a camper, beh, da furgoni l'hanno trasformato in camper, vengono qua, sono gli altri quelli lì, quei fili dei fiori, ne hanno un bel di questi furgoni qua, qui. Vengono, si fanno le vacanze, si danno quattro scatolette, negozio, e poi mangiano scatolette per risparmiare e gira. Un messaggio, mia. No, è completamente diverso, l'ho avuto io, è una delusione quella radio, lascia perdere, no, sto rispondendo perché mi ha mandato un messaggio che è in ascolto, è una delusione che c'è la radio, l'ho avuta io, sui giorni mi avete avuto 9:20, per carità, una delusione c'è la radio, quale? 2000. TS 2000? No, no, no, no, io è giù. Ah, K-gatta. Vabbè. Sbagliando si impara. Boh, è una maniera di stare sempre a cambiare, ti cambia. Poi alla fine sono tutti uguali, o magari quella che dai è meglio di quella che compri. E infatti il proverbio è proprio vero, mai lasciare la strada vecchia per la nuova. Torri! Eia, carissimo! Ciao, ciao Claudio, ciao Gianni, buonasera! Ui, e beh, fortuna! Capo, dai, di dietro! Però il telefono, adesso come sono qua, coordinate motorizzazione ho acceso? Capo, già, ti ascolto bene, c'è... Oggi sei bello, poi adesso mi sono comprato l'amplificatore d'antenna, se non ti sento attacco l'amplificatore. È positivo, no, io ti sento benissimo. Vabbè, Claudio non se ne parla. No, Claudio sento molto la voce. La c'hai Claudio, ma è freddato, sì. Raffreddato? No, no, sto usando un baracchino vecchio, fortunato, non è la voce che senti sempre. Questo è un baracchino degli anni 70, 75, con un microfono da tavolo. Ah, e se prendi la voce vicina, dai. Beh, c'è invece la radio, fortunato. Il capo di Roger. Peggio di vecchia. Picchiando da ciappo già lo sai, mi. Non ti preoccupare, per Natale cos'è a voi? Il panettone suonate ve la mette. No, veramente non si usano più. Ha preso quel rasoio dei cinesi. Cazzo, taglia una meraviglia. Ah beh, allora ti compro quello nuovo, Quello che fa barba i capelli voi. Cazzo capelli. Mi sa che sto prendendo anche quelle. Ha giudito, no, non a partire che ci dirichina. Fai una matassetta, Fortunato. Mica ti cerchi. No, adesso mi servono perché c'è freddo, sai. Adesso mi a tagliarmeli se ne parla giugno. No, ma che prima, dai. Cazzo, ogni anno ti raggi tutto? Sì, no, solo il petto no. No, il petto no. Però dietro e davanti mi do una sistemata, dai. No, perché... No, non mi piace, cazzo, no, non l'accetto. Più ti rasi, più ti cresci. Confermo già, confermo. Ho fatto con le sopracciglia così, quando non va bene, tagliamo le sopracciglia e taglia. Cazzo, me la fate diventare come ti mangi a fuoco. Te devi curare. Io lo stesso, le sopracciglia le sistemo, le orecchie, sai... Sono cazzo sempre un lupo. Anche io le orecchie, ho proprio la macchinetta per le orecchie, per il naso, i peli del naso, per le orecchie, tutto il mondo. Sì, bisogna tenersi, dai, già, capita. Però quando ti vesti bene, cazzo, è un peccato. Mi sputtava i peli dal naso, dalla legge che pare, cazzo, una scia. Sì, a capo. Ma fortunato non hai questi problemi, già. Io fortunato l'ho visto d'estate in canottiera e... Cazzo, ma perché c'è il maglione sotto? No, non è il maglione, questo è la mia pelliccia. Vai, disgraziato, vai. Devo andare giù. Ma conosci te, fortunato, era molto più giovane, anzi molto giovane. Molto giovane. Sembra che abbiamo 1 o 2 anni di differenza. Però... era una cosa allucinante, un bestione. Capo dai, 1,88 di altezza e siamo sui 100 5. Sempre quel peso hai tenuto, Fortuna? Beh, ah, Fortuna, sempre quel peso hai avuto, no? Sì. Tu, Fortuna? Sì. Ho detto sempre quel peso hai avuto. Io sono arrivato anche a 120, mica. Ma infatti mi ricordo che è più grosso. Non è che si notava molto perché sei molto alto, però mi ricordo che il più grosso della greffa era è stato sempre Mario Babantare. Positivo, sì, no, io a 120 ho avuto problemi di pressione arteriosa. E poi se lo sai, noi facciamo valvole quanto c'è. Anch'io ho avuto lo stesso problema, ero oltre i 90, adesso sono 79, sto tenendo la media 79, 80, 81, ma non posso salire di più, capito? Va bene Gianni, sono le 8:05, dai, io inizio a prepararmi. Fortuna, un abbraccio grande, fatti sentire prima di Natale, noi ci facciamo gli auguri, ok? Che io ho il cane da sistemare. Ciao a tutte e due, e ci sentiamo dopo se coincide già. Sì, va bene. Va tranquillo, stanno anche io adesso, saluta Fortunato. Io mi domando sempre se lo conosco Fortunato o no, però dalla voce mi sembra che lo conosca. Siamo con una maniera. Ovvio. Che si ricorda. E può darsi, perché lì andavamo a pescare, quella zona lì. A Franco Calipur. Sì, io vagamente, ma non mi viene chi sia, capito? Però sicuramente ti conosco, anche perché quasi tutti in frequenza li conosco. E poi c'è anche su Facebook, mi cerchi, e ti può dire anche il cognome qui, lo cresce, sono fortunato. Cappagata, andava fortunato, dai. Si arriva dalla parte che c'è da aprire il cancello. Ciao, un abbraccio forte, dai, ci sentiamo. Saluta Claudio, se rientro, ok, ciao. Ciao, Fortunato, se non ci sentiamo buon Natale, dai. tanto questo Natale sarà tutto buono. Già, io ricambio il tutto anche al QR a famiglia, dai, ci sentiamo, passo e chiudo da parte mia. Ciao, stiamo aspettando di notte già, abbiamo chiuso non più dalle 10, però non c'è entrato. C'è qualcuno?